Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio, un'ultima puntata della settimana, ma andremo avanti in diretta ancora fino alla fine del mese di luglio, quindi non mancheremo di tenervi in compagnia con tutte le tematiche, insomma, economiche e finanziarie che riguardano le nostre famiglie, che ci riguardano in qualità di investitori e risparmiatori, e oggi proprio focus sui nostri investimenti, anche quelli che non sono andati molto a buon fine nell'ultimo periodo. Allora, il governo ha migliorato ancora le condizioni per rimborsare i risparmiatori che avevano investito in Alitalia. La novità è arrivata con il decreto fiscale approvato venerdì scorso ed è una novità che risiede nell'innalzamento del tasso di rimborso delle obbligazioni rispetto al valore nominale delle obbligazioni appunto detenute, ed è un innalzamento che vale il 70,97% dell'ammontare complessivo dell'investimento in portafoglio e quindi aumenta notevolmente rispetto al 30% ipotizzato in una prima fase, che era stato anche oggetto di una proposta formale da parte del governo. Per accettare la nuova offerta c'è tempo fino alla fine di agosto. Ma c'è un'altra novità importante: è stato individuato anche e fissato il rimborso per gli ex azionisti della vecchia compagnia di bandiera, che adesso non esiste più. In entrambi i casi il rimborso non sarà cash, non sarà in contanti, ma sarà nella forma che era stata individuata anche per il primo rimborso proposto dal governo, e cioè sarà sotto forma di nuovi titoli e non potrà andare oltre un determinato tetto, che vi spiegheremo nel corso della trasmissione. In sostanza, botte CCT in cambio dei vecchi Mengozzi bond. Allora, oggi vale la pena a ritornare a fare il punto della situazione con un bel pool di ospiti. Abbiamo richiamato di nuovo con noi l'avvocato Gianfranco Graziadei, rappresentante comune degli obbligazionisti Alitalia, membro del comitato di sorveglianza di Alitalia, avvocato e professore di diritto bancario alla LUIS di Roma. Alberto Foà, amministratore delegato di Anima SGR. Nella seconda parte della trasmissione sentiremo anche il collega del Sole 24 Ore, che conosce nel minimo dettaglio le vicende degli ultimi 10 anni di Alitalia, Gianni Dragoni, e sentiremo anche Paolo Landi, segretario generale di Adiconsum. Ovviamente, come sempre, microfoni aperti anche a voi. Il numero che dovete formulare per intervenire in diretta è l'800240024. Se non ci volete chiamare, ci potete scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Dopo la giornata pesantissima di ieri, le borse europee hanno mandato in fumo in Europa oltre 100 miliardi di euro di capitalizzazione. Stamattina provavano a ripartire, ma non ci sono per niente riuscite. Infatti riperdono di nuovo terreno anche oggi, quindi in sostanza consolidano i ribassi di ieri, che sono stati provocati dal dato sulla disoccupazione americana pesantissimo. È il livello più alto della disoccupazione negli Stati Uniti, al 9,5% dal 1983. In giugno l'economia americana ha visto andare in fumo 467.000 posti di lavoro, era atteso un calo di 365.000 unità, quindi pensate insomma come può essere stato accolto questo dato dalla borsa. Molto male ieri sera anche Wall Street, e oggi peraltro non ci aspettiamo niente dal mercato americano, perché è chiuso per la festa dell'indipendenza, che in realtà si festeggia il 4 luglio negli Stati Uniti, ma oggi c'è una vigilia appunto di chiusura di borsa. La crisi economica dunque torna a preoccupare moltissimo gli investitori. Ieri, ricordiamo, la Banca Centrale Europea ha mantenuto i tassi fermi all'1%. Nell'eurozona, segnali di ripresa, ha detto Trichet, non si vedranno prima degli ultimi trimestri del 2010, e tutto questo ieri è tornato appunto ad alimentare il pessimismo fra gli investitori. I prezzi del petrolio sono finiti a $67 al barile, il che può apparire una buona notizia, ma quando il calo della domanda di petrolio si lega ad un calo dell'economia, quindi a prospettive di recessione che continueranno, e allora questa appare al mercato una cattiva notizia, per cui oggi tutto questo significa segno meno davanti alle borse europee. Milano sta perdendo lo 0,54% sul FTSE MIB. Diamo un'occhiata ai migliori titoli. Ansaldo più 2,54%, bene il Banco Popolare che sta guadagnando il 2,23%, abbiamo un rialzo di Campari sull'1,41%, Unipol più 0,6%, Popolare di Milano più 0,4%, Luxottica più 0,3%. Per quello che riguarda invece il segno meno, oggi prevale su Saipem, che sta peggiorando la sua giornata, meno 2,72%, Pirelli meno 2,41%, ha annunciato ieri un piano di investimenti da 200 milioni milioni di dollari in Brasile e ha aperto anche la possibilità di investimenti in Libia e in Arabia Saudita, ma insomma prospettive che al mercato non interessano minimamente a quanto pare. Autogrill perde 2 punti, Tenaris meno 1,82, Finmeccanica meno 1,71, Mediobanca meno 1,54, Eni segue il petrolio e perde quasi 1,5 punti, di nuovo una brutta giornata anche per Fiat, meno 1,39, il titolo che aveva tentato di recuperare gli 8 euro nei giorni scorsi è ritornato sui 7, A2A meno 1,31, abbiamo un ribasso di 1 punto su CIR e Buzzi Unicem. Una giornata negativa per Mediaset, che è stata bocciata da un report degli analisti di Credit Suisse, anche se tutto sommato c'è una certa tenuta, il biscione negativo per lo 0,3%, l'euro perde la soglia di 1,40 sul dollaro e scivola 1,39,86. Direi che possiamo lasciare la borsa per andare subito al tema di questa mattina e ritorniamo sul punto della situazione per gli vecchi investitori di titoli Alitalia. Aumenta al 70,9% il rimborso per gli obbligazionisti Alitalia. È questa la nuova offerta lanciata dal decreto anticrisi del governo agli obbligazionisti della compagnia aerea, che avranno tempo fino al 31 agosto per decidere se accettare la proposta. Una novità arrivata dalla manovra estiva, che include anche gli azionisti in precedenza esclusi dal rimborso. In particolare, la nuova proposta di rimborso parziale prevede 0,26 euro per ogni obbligazione e 0,27 euro per ciascuna azione della compagnia, ora in amministrazione controllata. Ma non sarà denaro contante ad arrivare nelle mani dei risparmiatori, che si ritroveranno invece in portafoglio titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con un taglio minimo di 1.000 euro. Resta invariato invece il tetto di 100.000 euro per il rimborso che ogni singolo obbligazionista può ottenere, soglia che scende a 50.000 in caso di azionista. Ma ci sono anche altri tetti. I rimborsi ai bondholder non potranno complessivamente superare nel 2009 un limite di spesa che dovrebbe essere di 100 milioni per le casse dello Stato. Gli esborsi in eccesso, compreso quelli a favore degli azionisti, saranno portati a termine nel 2010. Chi volesse aderire alla proposta dovrà presentare tramite intermediari finanziari la propria richiesta al Ministero dell'Economia, in cui si dichiarerà l'impegno a trasferire al Tesoro tutte le azioni e obbligazioni all'Italia possedute e la rinuncia ad intraprendere altre azioni o pretese. E per chi avesse già aderito alla precedente offerta di rimborso del 32% stabilita dal governo nei mesi scorsi? Niente paura. Secondo il Ministero dell'Economia, la nuova proposta sarà estesa anche a loro. Insomma, diciamo che a molte domande possibili da parte vostra abbiamo dato una risposta nella nostra scheda, ma non mancheremo di approfondire tutti i punti con i nostri ospiti. Allora torno a ringraziare per essere ritornato di nuovo con noi all'avvocato Gianfranco Graziadei, rappresentante comune degli obbligazionisti all'Italia. Avvocato, bentornato a Salvadanaio e grazie di averci ridato la sua disponibilità. Grazie e buongiorno a tutti. E buongiorno anche, bentornato ad Alberto Foà, amministratore delegato di Anima SGR. Foà, bentornato anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io adesso sono indecisa se cominciare a fare subito delle domande ai nostri interlocutori o se permettere le domande ai nostri ascoltatori. Io direi che possiamo tranquillamente cominciare in questo secondo modo, poi avremo la possibilità ovviamente di chiarire gli aspetti che magari rimarranno in sospeso direttamente con Graziadei e Foà. Però io apro subito i microfoni allora a Amleto da Brindisi, che saluta. Amleto, benvenuto a Salvadanaio. Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, io sono un piccolo azionista d'Italia. Azionista, sì. In parte mi è stato risposto dalla scheda. Comunque, essenzialmente, appunto, volevo chiedere le modalità e i tempi per quanto riguarda la richiesta del tra virgolette rimborso. E se può essere fatto, diciamo, autonomamente, o bisogna comunque mettere tra virgolette in mezzo la banca o comunque intermediario appunto finanziario. L'intermediario finanziario. Allora, Amleto, io la ringrazio molto. Tra l'altro sia Foà che Graziadei ovviamente oggi parleranno fondamentalmente a nome degli obbligazionisti, ma sono sicura che soprattutto l'avvocato Graziadei potrà darmi una mano a rispondere anche per gli ex azionisti di Alitalia, perché tra l'altro questa proposta di rimborso apre anche, come dire, una parentesi di non trascurabile importanza, cioè un rimborso ad azionisti di una società fallita. In passato non è capitato a nessuno che potesse vedersi restituire qualcosa da società che sono state protagoniste di grandi crack finanziari nel nostro paese. I più importanti, Cirio e Parmalat, ma anche società minori, sono fallite e ovviamente i vecchi azionisti non si sono ritrovati più niente in mano, neanche quelli che hanno percorso la strada dell'azione legale contro l'intermediario finanziario. In questo caso invece si apre anche una strada nuova che poi commenteremo con Gianni Dragoni e Paolo Landi. Sentirei anche un altro ex azionista, Riccardo dalla provincia di Modena, e poi vado con gli ospiti. Riccardo. Sì, buongiorno. Io sono un ex azionista all'Italia. Volevo sapere, avevo circa 2.000 euro di azioni, come mi devo comportare e quando effettivamente potrò incassare il mio credito. Allora sì, qui. Riccardo, diciamo che io credo che forse queste modalità così nel dettaglio, i tempi sono stati fissati. Avvocato Graziadei, comincio con lei perché lei è un legale, anche se so che segue ovviamente fondamentalmente gli obbligazionisti, non credo che abbia perso di vista poi tutte le dinamiche. No. Esatto, allora. Allora, per quello che riguarda gli azionisti, innanzitutto condivido al 100% quello che lei ha detto, che è una cosa veramente nuova, quella di questa idea di un rimborso agli azionisti di una società fallita. Quindi è certamente una cosa molto interessante, soprattutto per gli azionisti. Per quello che riguarda le modalità, cioè quello che debbono fare, perché questa mi sembra che sia la cosa che preoccupa in primo luogo gli ascoltatori. Certo. Si devono rivolgere all'intermediario finanziario, ciascuno alla propria banca, dare istruzioni alla propria banca di inoltrare la pratica al Ministero. Il termine scade il 31 di agosto, quindi è una cosa che devono fare sollecitamente. Ecco, poi per quello che riguarda, come dire, i tempi proprio del rimborso concreto, quindi la trasformazione del vecchio pacchetto azionario in titoli di Stato, perché ribadisco, non è un rimborso cash, forse i tempi saranno più lunghi, perché ricordiamo che per fino al 2009 lo Stato ha un determinato ammontare che è destinato all'indennizzo dei risparmiatori, che sono circa 100 milioni di euro. Con il nuovo rimborso proposto con il decreto fiscale, le risorse che lo Stato deve tirar fuori sono un po' più alte, sono un po' più ampie. Adesso non abbiamo ben calcolato, c'è chi parla di 200-300 milioni di euro. Per questo, per poter far fronte a tutto l'impegno, diciamo che i vecchi pacchetti fino a dicembre 2010. Titoli, quindi un po' ce ne saranno quest'anno, un po' l'anno prossimo. Esatto, però l'indicazione fondamentale da dare agli ascoltatori è: rivolgetevi all'intermediario finanziario con cui avete fatto la compravendita del titolo e fatelo entro il 31 agosto. Magari rinunciate ad un giorno di ferie, ma fatevi subito sentire, ecco, magari non lo fate adesso domani mattina, ma comunque entro questa settimana probabilmente qualche banca si è già morta. Il 31 agosto sembra un termine assolutamente improrogabile, di decadenza, infatti. Quindi non rispettarlo significa perdere. Che riguarda anche voi obbligazionisti, avvocato Graziadei, questa proposta di rimborso che è stata elevata fino a questo punto, poi tra l'altro c'è un ascoltatore che ci ha scritto che ha fatto un conteggio secondo il quale è un 70% lordo, ovviamente al netto sono circa il 53%, ci ha scritto Gianni questa mattina, ma a parte questo vi soddisfa? Ma sicuramente sì, insomma, rispetto all'altra proposta che io avevo giudicato in maniera molto molto fredda, perché mi sembrava molto poco, questa la raddoppia. Cioè, il 70% sul valore nominale significa è una buona base di transazione, insomma, è una bella transazione, quindi a me sembra che sia una proposta vantaggiosa per gli obbligazionisti. Allora, siccome il Tribunale di Roma sta esaminando le richieste di insinuazione al passivo e proprio in settembre, se non sbaglio, tra settembre e ottobre doveva esaminare anche le domande di insinuazione al passivo, avvocato che seguiva lei, degli obbligazionisti, a questo punto il fatto che sia arrivata questa proposta migliorativa, magari molti obbligazionisti vorranno accettarla entro il 31 agosto, vanifica tutte le date dal Tribunale di Roma fissate per la autunno? Perché entro il 31 agosto avviene questa cessione, diciamo così, allo Stato dei loro diritti, dopodiché sarà un compito dello Stato surrogarsi nella domanda di insinuazione al passivo che eventualmente fosse già stata fatta. Allora, quindi sono ancora aperti e quindi non è che... Quindi insomma, allora Alberto Foà, amministratore delegato di Anima SGR, benvenuto anche a lei. Grazie. Allora, sì, l'abbiamo già salutata peraltro. Anima si era fatta promotrice lo scorso aprile di una assemblea degli obbligazionisti, fatta ovviamente in collaborazione con tutti coloro che sono con l'avvocato Grazia Dei, per accettare questa seconda proposta di rimborso, perché tra l'altro la prima assemblea era stata, come dire, formalmente convocata anche perché era arrivata la prima proposta di rimborso da parte del governo. Per accettare questa seconda ne riconvocherete un'altra? No, direi che a questo punto ognuno deve decidere se il 70,97% gli va bene o no. Tra l'altro quello che dice il vostro ascoltatore, che il 70,97% corrisponde al 53%, non è esatto. Perché mentre prima era il 50% della media dei prezzi di borsa, che corrispondeva poi al 30% sul nominale, questa volta è il 70,97% sul nominale, quindi 70,97% che rimane il 70,97%. Se vuole leggo tutte le argomentazioni dell'ascoltatore, perché tra l'altro mi dice proprio, mi piacerebbe ascoltare in merito il parere del dottor Foà, perché Gianni sostiene in sostanza: vorrei porre l'accento sul fatto che il governo nel decretare il rimborso penalizza i risparmiatori, oltre che del 29% non restituito nonostante le promesse, anche ad un ulteriore 18%, in quanto il rimborso viene restituito al 31/12/2012 senza interessi. Ah no, allora certo, se tu fai il conto in termini di cedole perse e di valore attuale, c'ha ragione. Diciamo, formalmente, nominalmente è un 70,97% che, come giustamente dice l'avvocato Grazia Dei, raddoppia rispetto a quello che era l'offerta di prima. Diciamo, possono essere dette due o tre cose. La prima, noi ovviamente siamo soddisfatti perché, essendo stata Anima che in prima persona ha condotto questa battaglia, tanti piccoli risparmiatori vengono in effetti a oggi a trovarsi una posizione migliore rispetto, ancorché non del tutto soddisfacente, ma una posizione sicuramente più soddisfacente rispetto a prima. Sì. Lo Stato riconosce una sua responsabilità implicita, come anche ha detto lei prima, perché diversamente non avrebbe rimborsato né obbligazionisti né azionisti, al contrario appunto di quello che è successo con Cirio e Parmalat, dove lo Stato non si è nemmeno lontanamente sognato, e giustamente, di rimborsare nessuno. Rimane una cosa da chiarire, che secondo me è una cosa fondamentale, è che il limite di 100.000 euro penalizza in maniera totale i risparmiatori, i piccoli risparmiatori che detengono obbligazioni all'Italia per il tramite di fondi comuni di investimento. Ovviamente comprano per quantità più importanti, quindi diciamo un fondo investimento che abbia una posizione da 2 milioni di euro con il limite di 100.000 euro viene rimborsato al 5%, cioè a dire quasi niente. Quello che noi ci auguriamo venga chiarito in sede di dibattito parlamentare, in sede di conversione in legge del decreto, è il fatto che i piccoli risparmiatori che detengono quote di obbligazioni, che detengono obbligazioni all'Italia per il tramite del fondo investimento, non debbano essere più penalizzati rispetto a un piccolo risparmiatore che abbia investito in maniera diretta. Cioè, se gli ipotetici 2 milioni di euro sono detenuti al fondo investimento che ha a sua volta, poniamo, 2.000 clienti, vuol dire che i 2.000 sottoscrittori di quel fondo hanno 1.000 euro di obbligazioni all'Italia per uno, e quindi non è giusto. Quindi mi sta facendo capire che da parte vostra vengano rimborsati al 5% mentre gli altri vengano rimborsati al 70-97%. Quindi in sostanza voi cosa avete intenzione di fare prima del 31 agosto? No, noi entro il 31 agosto chiaramente come fondo investimento non possiamo aderire a questa proposta che vede i nostri clienti, i sottoscrittori penalizzati appunto, come dicevo, in maniera totale, in maniera assurda. Noi continueremo con un'azione legale fin tanto che, e ci auguriamo che appunto in sede di conversione del decreto, il governo sani questa iniquità fra piccoli risparmiatori, diciamo diretti, e piccoli risparmiatori per il tramite di fondi comuni di investimento, per l'appunto esentando i fondi comuni di investimento dal limite dei 100.000 euro. Voi avete presentato anche su tutta questa vicenda un esposto alla Consob, all'autorità che vigila sul mercato. Avevate ricevuto delle risposte, Foà? Noi abbiamo presentato due esposti. Un primo esposto perché l'offerta non era corredata di un prospetto informativo è un secondo esposto, perché prima che uscisse questo decreto si continuava appunto a parlare delle visioni dei tempi. Senta, io la sto perdendo, adesso facciamo una cosa, fra un po' devo andare a dare la linea ai colleghi della redazione per le anticipazioni del GR Extra Large. Proviamo a rifare la telefonata perché la sentiamo molto male, nel frattempo sento anche qualche altro ascoltatore. Daniele della provincia di Napoli era pronto da un po'. Daniele, benvenuto. Buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda, però già mi avete risposto in corso sì. di trasmissione. Volevo parlare anche di questo. Siccome si parla di un'approssimazione per difetto addirittura ai 1000 euro, se è così, cioè se queste cose che ho letto su internet corrispondono al vero. Lei intanto sì, Daniele, un azionista o un obbligazionista? Un obbligazionista. Okay. E poi non mi è chiaro una cosa, il 70, siccome si va molto per slogan, ma il 70% del valore nominale, cioè di 100, perché nella scheda sentivo parlare dello 0,22 rimborsato ad singola obbligazione, anche questo era un quesito che volevo porre. Sì. Grazie a lei, perché mentre parlava il professor Graziadei stavo sul cellulare, non si è distratto. Allora guardi, adesso facciamo fare anche un rapido calcolo all'avvocato Graziadei e faremo magari, se riusciamo, un esempio concreto rispetto al rimborso di cui potrebbe aver diritto. Allora, il governo con il decreto fiscale di venerdì scorso ha aumentato la soglia dei rimborsi previsti per gli obbligazionisti all'Italia, ma ha fissato anche un tasso di rimborso per gli ex azionisti. Noi stiamo cercando stamattina di orientarci in questa nuova proposta del governo, perché i risparmiatori coinvolti hanno tempo fino al 31 agosto per rivolgersi al proprio intermediario finanziario e dire sì, accetto oppure non accetto questa offerta. Stanno ovviamente, alla luce delle condizioni che sono state poste, facendo un po' di calcoli i nostri ascoltatori per capire quanto potranno riottenere da qui alla fine del 2010, e ricordiamo che il rimborso non sarà sotto forma di contante ma sotto forma di titoli di Stato di nuova emissione. Prima di rispondere alla domanda del precedente ascoltatore ci metto anche Luigi da Roma, che vedo che ha in portafoglio un bel pacchetto di obbligazioni della vecchia compagnia di bandiera. Luigi, dei vecchi Mengozzi Bond, benvenuto. Buongiorno. Io volevo fare una domanda all'avvocato Graziadei. Sì. Avendo in portafoglio obbligazioni per 250.000 euro di valore nominale, sì. se secondo lui mi conveniva più aderire a questa proposta oppure perseguitare, diciamo, la strada del fondo Anima, visto che comunque sia il mio rimborso eventualmente sarebbe limitato alla somma di 100.000 euro. Luigi, adesso noi le possiamo far dare un consiglio, una valutazione, sì. una sollecitazione all'investimento. Lei capisce che non la possiamo fare, cerchiamo di valutare un po' le due chance. Intanto, avvocato Graziadei, allora, c'erano alcuni ascoltatori che non hanno ben capito come funzioni il meccanismo, no, di conversione del vecchio pacchetto nel nuovo pacchetto composto di titoli di Stato. Allora, intanto ricordiamo che questa proposta è indirizzata agli obbligazionisti del prestito all'Italia 7,5% 2002-2010 convertibile. Obbligazioni del valore nominale di 0,37 centesimi. Benissimo. Quindi il valore nominale non è 100, sono 37 centesimi. E da lì partiamo. 70,97% di 37 centesimi dà esattamente quello 0,265589 che dice il decreto. Benissimo. Quindi da qui si può partire per fare un calcolo praticamente. Sarebbe fuorviante riportare l'obbligazione a 100 lire, perché non è di 100 lire ma è di 30 e di 100 euro, è di 37 centesimi ogni obbligazione. Allora, lei teoricamente rappresenta anche Luigi da Roma, avvocato Graziadei? Sì, anche. 250.000 euro di obbligazioni all'Italia, come è molto difficile potergli dare suggerimenti. Sono diversi, questo sono... È difficile telefonicamente dargli un qualche suggerimento. In pratica, con 250.000 euro e il tetto di 100.000, in definitiva lui, tra la vecchia e la nuova proposta, passava la soglia dell'indifferenza, perché per lui con la nuova proposta non cambia niente. Alberto, sì, Alberto Foà. Alberto Foà, vogliamo dare qualche indicazione a Luigi da Roma? Chiaramente tutti quelli che in qualche maniera ricadono il limite di 100.000 euro si vedono soddisfatti solo nel limite di 100.000 euro. Di questo tetto, certo. E quindi quello che lui può fare è presentare obbligazioni del valore nominale di circa 130.000 euro, che lo va a far ricadere, per quanto riguarda il rimborso, che va a farlo ricadere il limite di 100.000 euro, si tiene la differenza, cioè si tiene 120.000 euro di obbligazione nominale, e con quello, se vuole, può avviare un'azione legale. Senta, è possibile frazionare l'investimento per poter permettere a Luigi di eventualmente ottenere... Certo, uno può consegnare il quantitativo che ritiene più opportuno, cioè il decreto non specifica se uno debba consegnare tutta la quantità in suo possesso o meno. Quindi secondo lei, insomma, Luigi cosa può fare? Magari valutare anche dal punto di vista legale un po' meglio questa sua situazione? Per l'azione legale dal punto di vista individuale può risultare lungo e... costoso, però c'è anche da dire che per lui consegnare 250.000 euro di obbligazione nominale o consegnarne 130.000 euro per avere il 71% di 130.000 euro, cioè circa 100.000 euro, è uguale, quindi in un certo senso può tenersi questa carta in mano. Vincenzo da Napoli, benvenuto. Buongiorno, salve a tutti. Buongiorno a lei. Chiedo scusa già in anticipo se avete già risposto alla mia domanda. No, ma non ci mancherebbe anche che vi scusiate, Vincenzo. Guardi, se c'è necessità di ribadire una cosa, un aspetto, lo facciamo molto volentieri. Grazie mille a tutti. Io ho una domanda, nel senso che io sono un piccolo e vecchissimo azionista d'Italia. Purtroppo ho acquistato l'azione d'Italia a 1,21 euro. Il discorso è questo: io leggevo ieri sui quotidiani che lo Stato rimborsa le azioni a 0,27 centesimi, sì, con dei libri di Stato di taglio minimo 1.000 euro. Sì. Il fatto è questo: io, secondo i miei calcoli, ora purtroppo sto sotto i 1.000 euro. Come funziona il rimborso? Allora, adesso speriamo di riuscire a poterglielo spiegare, poi magari, siccome ci raggiungono anche Gianni Dragoni e Paolo Landi, magari loro sapranno darci qualche dettaglio in più. Allora, da quello che io capisco, questo prezzo è stato determinato, questo prezzo di rimborso, sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni dell'ultimo mese di negoziazione, all'Italia non è più negoziata in borsa dallo scorso 4 giugno, da più di un anno, ridotto del 50%, per cui si ha un valore di 27,22 centesimi di euro per singola azione. E come specificava l'ascoltatore, in cambio gli azionisti avranno titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza 31 dicembre 2012. E ecco, avvocato Graziadei, mi aiuta a interpretare meglio questa faccenda del taglio minimo unitario di 1.000 euro? Allora, le leggo perché forse è la cosa migliore. Le assegnazioni di titoli di Stato di cui la precedente lettera non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista. Questo, intanto, sono parole che adesso sono state modificate. E avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 si provvederà ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4. L'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5 lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede alla scadenza pattuita a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controllo delle obbligazioni trasferite, eccetera, eccetera. Quindi il problema sembrerebbe scaricato sulle spalle dell'intermediario finanziario. Ah, ecco, cioè detta proprio praticamente... Esatto, e poi dopo alla scadenza, quando verrà il 2012, farei i conti fra... Allora, adesso voglio dire, entrare anche nelle technicality di come avverrà il rimborso, forse è un pochino prematuro, perché credo che anche gli intermediari finanziari stiano facendo tutte le valutazioni tecniche rispetto a questa nuova proposta del governo. Ricordiamo che ovviamente al momento in cui avviene la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto fiscale ci sono 2 mesi di tempo per la conversione in legge, non vorrei che poi tornasse anche a cambiare qualcosa, quindi dobbiamo ancora aspettare un pochino. Detto questo, per chi intendesse accettare questa offerta, la prima indicazione che si può dare è sicuramente, lo ribadiamo, rivolgersi all'intermediario finanziario, che magari anche in maniera più comprensibile di noi potrà spiegare le modalità di questo rimborso, che io tenderei, anche se soprattutto ci troviamo di fronte azionisti della compagnia di bandiera, ex azionisti della ex compagnia di bandiera, tenderei proprio a non trascurare, non sottovalutare, perché nessun azionista mai nella storia di società fallite è stato rimborsato di alcunché, per cui non trascurerei questo aspetto, che adesso appunto commenteremo anche con gli ospiti che ci raggiungeranno tra qualche istante. Ecco, tra l'altro, questo è proprio oggetto di commento da parte di un ascoltatore, Gianni dalla provincia di Lecco, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, quello che io mi chiedevo, così come appunto immagino tanti altri azionisti, io ero un piccolo azionista della Parmalat, è stato proprio questo stupore, no? Cioè il vedere che sono stati rimborsati, risarciti in qualche modo, non solo gli obbligazionisti, che è più comprensibile, ma anche gli azionisti. Ecco, volevo chiedere ai vostri ospiti qual è la differenza fondamentale tra la Parmalat e l'Alitalia, perché gli azionisti hanno riconosciuto qualcosa. Sì. È di una banalità estrema, però noi certamente glielo ribadiamo, la presenza ingombrante di un azionista di non trascurabile importanza, Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Glielo spieghiamo a Gianni D'Alecco il motivo per cui nel caso di Alitalia gli azionisti vengono rimborsati? Capisco la frustrazione e l'amarezza. La frustrazione e l'amarezza, giustamente, di chi è stato ingannato, perché quelle sono comunque situazioni di frode ingannevoli. Non sono situazioni in cui aziende sono andate male per il mercato. Credo che la ragione principale, credo, perché non è stato esplicitato, sia che essendo l'Alitalia, la vecchia Alitalia in liquidazione, una società per metà dello Stato, controllata dallo Stato, e nella quale quindi chi investiva, anche se in questo caso l'azionista è sempre un capitale di rischio, anche quando la società è dello Stato, poteva pensare di avere una sorta di garanzia che non c'è formalmente, e quindi forse per questo lo Stato, il governo si è sentito in dovere di dare un parziale rimborso. Credo però che ci sia una ragione in più, e cioè che chi ha inflitto alla vecchia Alitalia questa fine, cioè quella di metterla in liquidazione commissariata, svuotarla delle attività e venduta a un prezzo molto basso rispetto al valore dei debiti e del capitale, e quindi senza che ci siano risorse per rimborsare gran parte dei debitori, e quindi e nessuna risorsa per rimborsare gli azionisti, sia che pochi mesi prima, per varie ragioni, comunque era stata respinta, ragioni politiche, sindacali, un'offerta, quella di Air France, che era più vantaggiosa di quella poi finale della CAI, e quindi forse secondo me c'è stato anche un po' un senso di colpa. Non ci dimentichiamo che è stato fatto anche un po' tutto in campagna elettorale un anno fa, poi con l'operazione, lo ricordiamo bene. Campagna elettorale con un senso di colpa dietro. Campagna elettorale che poi adesso è finita, però le elezioni ci saranno di nuovo in futuro, quindi magari qualcuno ha la memoria lunga, come diceva Einaudi. L'hai detto tu, Gianni, io non l'ho detto, però magari molti lo pensano, e ti fai sicuramente interprete, come dire, dei dubbi di molti. Ti prego di rimanere in linea con noi, anche se avverto che c'è qualche difficoltà nel collegamento, perché Gianni peraltro l'abbiamo disturbato anche in una giornata di impegni personali, ma molto volentieri ha raccolto il nostro invito. Fra un po' sentiremo anche Paolo Landi della Di Consum, e c'è un altro ascoltatore, Roberto da Lecce, che non ci sta rispetto a quanto stavamo proprio dicendo adesso. Anzi no, forse un ascoltatore che capisce, come dire, il fatto per cui agli azionisti all'Italia un rimborso viene riconosciuto, pur capendo, come diceva giustamente anche Gianni Dragoni, le frustrazioni di chi invece in passato, essendo stato coinvolto anche in crack finanziari che hanno avuto un sapore dello scandalo enorme e clamoroso, non hanno rivisto ritornare indietro nel proprio portafoglio un bel niente. Salva Danaio, ultima parte. Questa mattina abbiamo dedicato la nostra trasmissione, visto che stiamo seguendo il decreto fiscale che è stato approvato venerdì scorso dal governo, abbiamo parlato di tutti i punti che toccano i consumatori e i risparmiatori, abbiamo parlato della commissione di massimo scoperto, delle novità sui mutui, e visto che sono previste anche delle novità per vecchi obbligazionisti e azionisti di Alitalia, questa mattina siamo tornati a parlare anche di questo. Tra l'altro mi sono dimenticata di segnalarvi una cosa importante, che sul Sole 24 Ore, in edicola oggi, trovate la seconda uscita della guida alla manovra d'estate, che oggi si concentra sulle misure per le imprese, in particolare sulla detassazione degli investimenti per macchinari e apparecchiature, sugli ammortamenti in tempi più stretti, quindi la misura della detassazione sugli utili reinvestiti che aspettavano appunto le imprese. Noi tra l'altro, sempre in virtù di questa uscita del Sole 24 Ore, faremo una puntata sulle bollette, sulle tariffe energetiche, lunedì prossimo per l'appunto, a Salva Danaio, per cui non mancate, perché ci dedicheremo anche a questo tema che per voi è molto interessante. Allora, ci ha raggiunto nel frattempo Paolo Landi, segretario generale di Adiconsum, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo spiegato le modalità con cui dovrebbe concretizzarsi questo rimborso elevato nella soglia agli obbligazionisti ed azionisti di Alitalia, e adesso le ultime considerazioni, Landi, si erano state spese sul, come dire, sui figli e figliastri, no? dei crack finanziari. Per chi ha investito in passato in Parma, la Tecidi e quant'altro, gli azionisti non si sono visti riconoscere niente. La natura diversa della questione Alitalia e la presenza ingombrante di un azionista molto forte, che è stato lo Stato appunto, ha richiesto invece che, anche per questioni di natura politica, come dire, gli azionisti fossero in qualche maniera risarciti, ricompensati di queste vicende molto tristi di questa compagnia. E qualche ascoltatore non ci sta, le faccio sentire anche, prima di sentire Roberto, le volevo far sentire Mario da Pordenone. Mario. Sì, buongiorno. Sì, in qualche modo ha risposto Dragoni, ma in effetti io sono un promotore, gente che voleva comprare dall'Italia quando è venuto fuori il discorso di Berlusconi, che mi ha chiamato alle 7 di mattina per dire prendimi 20.000 pezzi, e dico no, è un titolo che non vale nulla, lascia stare, e credo che molti che hanno comprato l'Italia e anche l'obbligazione d'Italia l'abbiano fatto per il fatto di sapere i famosi Mengozzi bond, tanto è garantito. Anche il discorso che ha fatto Fuano, ho visto benissimo, nei fondi, ma se un fondo ha dentro le obbligazioni all'Italia, significa che è un fondo speculativo, quindi mi darà grandi rendimenti su alcuni titoli, mi perde esattamente quello che ha investito nell'Italia. Mi sembra un po' troppo comodo, nessuno si è opposto a questa forma di risarcimento a spese di tutti gli altri, cioè se uno specula, se uno va al casino perde i suoi soldi, no, non può perdere quelli degli altri. No, sì, Mario, questo magari io lo comprendo, poteva anche essere vero perché magari ha fatto un acquisto un po' allegro proprio nel momento in cui il governo un anno e mezzo fa si è alzato, ha mandato in aria le trattative con Air France e ha detto noi manterremo in mani italiane la compagnia, per cui la salveremo, e questo è quanto. C'è però da ricordare, magari lo faccio con Paolo Landi se vuole, che ci sono molti i detentori di questi prodotti di investimento che magari sono ex dipendenti della vecchia compagnia e che si trovano in mano questi titoli che ad un certo punto sono stati assolutamente privi di valore perché erano frutto anche di vecchi premi, delle politiche di incentivo aziendale, quindi insomma c'è una situazione anche molto differenziata. Landi, non so se si trova d'accordo su questo. Nel caso della Parmalat, come si ricorderà, quelli che hanno ottenuto un risarcimento, hanno ottenuto un beneficio, sono stati gli obbligazionisti, perché in tutti i casi gli azionisti sul piano del diritto non possono vantare niente. Il caso all'Italia è un po' un discorso caso anomalo, perché noi avevamo, c'era un'offerta, come dire, da parte della Air France di rilevazione dell'Alitalia e quindi di un vantaggio che andava anche agli azionisti qualora Alitalia fosse passata, come dire, alla Air France. In quell'occasione, come si ricorda, come tutti sanno, come dire, è intervenuto il governo. Sì, l'abbiamo già ricostruito con Gianni Dragoni qualche minuto fa. Esatto. E nei confronti, come dire, sia degli obbligazionisti sia degli azionisti ci fu un impegno esplicito del Presidente del Consiglio in quale affermò che i risparmiatori, azionisti e obbligazionisti, non avrebbero perso niente. La verità, hanno perso qualcosa, quindi in questo caso c'era un impegno esplicito da parte del Presidente del Consiglio, e per questo noi ci siamo battuti, vuol dire, perché questo impegno fosse, come dire, concretizzato sia nei confronti degli obbligazionisti, e certamente hanno un beneficio maggiore, un riconoscimento maggiore, ma anche nei confronti degli azionisti che formalmente non dovrebbero, come dire, non possono vantare nulla in caso di fallimento, ma in questo caso c'era un impegno esplicito del Presidente del Consiglio, quindi che venga riconosciuto una qualche forma di risarcimento anche a loro riteniamo doveroso alla luce di questa storia. Ecco, volevo fare una domanda anche all'avvocato Grazia Dei, perché ho trascurato un po' nella seconda parte del programma, tra l'altro proprio a proposito dei piccoli obbligazionisti titolari appunto di cosiddetti e famigerati Mengozzi bond. So che avete scoperto in quella famosa assemblea degli obbligazionisti di aprile, che per la verità non ha avuto grande successo, che però abbiamo una miriade di piccoli risparmiatori con in mano questi titoli di pezzature molto molto piccole, Grazia Dei. Perché da un'analisi fatta di questi dati, così, ma per pura curiosità, sono stati i depositanti, gli obbligazionisti depositanti erano un po' più di 1.000, e se togliamo due grossi depositi per quasi 15.000 obbligazioni su 53.000, il resto si fa in fretta a fare il conto, insomma, erano 40 milioni di titoli divisi tra mille depositanti, quindi il più sono sotto i 100.000 sotto un valore di 100.000. Avvocato, grazie a lei. Allora, lei è legale rappresentante degli obbligazionisti. Alla luce della proposta di rimborso, ovviamente adesso bisognerà vedere quante adesioni ci saranno entro questo termine fissato dal governo, che è il 31 agosto, e quindi poi concretamente in che modalità avverrà le consegne dei titoli e quant'altro. Ma insomma, per quello che riguarda lei, l'incarico che ricopre, quali sono gli appuntamenti a questo punto che dovremmo tenere sotto questo controllo? Come rappresentante comune degli obbligazionisti, a questo punto direi che sono finiti. Rimangono quelli di membro del comitato di sorveglianza della procedura, quindi un incarico anche questo abbastanza faticoso. Spesso siamo già arrivati a 18 comitati, insomma, non è che abbiamo fatto uno solo. Che cosa fa questo comitato? Seguiamo le operazioni di liquidazione, facciamo tutte le verifiche e i controlli che la legge prevede a carico del commissario Fantozzi, della regolarità della procedura di liquidazione. L'ultima considerazione di Roberto da Lecce. Roberto, poi faccio intervenire Foà, perché so già che vorrà dire qualcosa a proposito del fatto che un ascoltatore ha parlato dei fondi Anima come anche un po' speculativi, visto che si erano portati in casa questi prodotti. Però sentirei Roberto, poi faccio concludere Foà. Roberto da Lecce. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Tra l'altro sto concludendo un argomento che già è stato toccato. Sì. Io sono un piccolo risparmiatore, azionista all'Italia, e sinceramente vedere uguale a zero le mie azioni nel deposito titoli mi seccava molto. Ora ero rimasto un po' sorpreso a sentire elevare i peana di gloria, di gioia, perché per la prima volta in un fallimento veniva rimborsato qualcosa. Io non credo che questo si possa paragonare al fallimento di Ciglio di Parmalat. L'abbiamo detto Roberto, l'abbiamo spiegato. Allora, siccome ho terminato il tempo a mia disposizione, non la faccio argomentare ulteriormente. Foà vuole concludere, la faccio ovviamente commentare quello che ha detto l'ascoltatore prima. Avevate voluto fare un investimento speculativo. Ha fatto speculativo, nel senso che prima di tutto tutti i fondi hanno sempre una diversificazione molto elevata, quindi avevamo una piccola quota di obbligazioni all'Italia su tutto il portafoglio. Avevamo comprato le obbligazioni in sede di sottoscrizione, quindi in tempi assolutamente non sospetti, nel 2003. Nel 2005 abbiamo aderito alla proposta fatta al Ministero del Tesoro. Quindi brevissimo, perché devo salutare, sì. E quindi ci auguriamo, abbiamo aderito alla proposta del Ministero del Tesoro di allungare i termini nel 2005, ci auguriamo che alla fine i nostri clienti, che non sono assolutamente speculatori, vengano trattati come tutti gli altri piccoli risparmiatori, né più né meno. Vi riconvoco tutti intorno ai primi di settembre, vedremo com'è andata, insomma, il termine fissato dal governo del 31 agosto. Grazie a tutti, grazie alla redazione, ci sentiamo lunedì, buon fine settimana.